regina, alle profane soglie non calcar di quel tempio. Io Dio d'Abramo, sai pur chi mi s'adora. Or non è tempo, e tai riguardi. O donna eccelsa, o nata veramente araniar. Se bia sopressa, taci. Thank you.